Clistere Party giapponese. Salve. Inchino. Come va? Inchino. Anche a me tutto bene. Inchino. Mi inchino anche io. Eh sì, proprio una grande idea quella del mio analista. Quel coglione mi aveva iscritto a un gruppo giapponese di macrobiotici biologici in OGM, giustificandosi con la teoria che per stare meglio dovevo interagire con un ambiente a me ostile. Avevo solo un narghilè che utilizzavo per fumare con gli amici qualche volta. Era la cosa più somigliante a un clistere, con il beccuccio, il tubo e il contenitore. Un narghilè per il culo, praticamente. Ero pronto per il mio primo clistere party, organizzato da questo gruppo di estremisti naturalisti del benessere e del cibo, per di più giapponesi. Gli invitati entravano sorridenti ricevendo altri sorrisi, accompagnati dal loro portaclistere colmo di soluzione salina e Campari. Il party era in maschera e tutti avevano addobbato i propri alberi da culo con cappelli, nasi finti, baffi, vestiti, gonnellini. Seduti in fila con i portaclistere nella mano destra, uomini da una parte, donne dall'altra. La classica festa delle medie. Beh, forse proprio classica non direi. Comunque, entrai con il mio narghilè. Il silenzio fu plateale. E quando i giapponesi fanno silenzio, sono cazzi. Anzi, cazzi amari. La serata procedeva tranquilla, fra un buffet di pesche biologiche, yogurt privi di coloranti, acqua di rubinetto e pane integrale. Mi misi in disparte, senza dare troppo nell'occhio. Certo, non ero giapponese. E la possibilità di non essere notato durante i balli di gruppo con il clistere era molto bassa. Una specie di aligali orientale diede inizio alle danze. Tutti a tempo di musica, avanti e indietro con il portaclistere, e poi destra e sinistra, girandosi di culo e colpendolo 3 volte prima di una mezza giravolta. Io intanto avevo iniziato a fumare un po' di marijuana che mi ero portato da casa. Accanto a me un nerd, occhialuto, bruttissimo. Lo guardai, alzando un labbro alla Billy Idol e portandomi il beccuccio e il narghile anale verso la bocca. Mi guardò schifato, ma con ammirazione. Te, uomo bianco, infili primo oggetto nel tuo culo e poi in tua bocca. Il passaparola fu più veloce di un paio di zitelle di paese. E i presenti esordirono: te, uomo bianco, infili primo oggetto nel tuo culo e poi in tua bocca. O almeno credo che dicessero questo. Si alzarono tutti insieme, prendendomi in modo trofeo e portandomi verso il centro della stanza. Avevo usato dove nessun macrobiotico aveva mai usato. Avevo infilato beccuccio nel mio culo e poi in mia bocca. Ormai anch'io parlavo una strana lingua macrobiotica che traduceva la mia mente in modo ancora più macrobiotico. Insomma, le porte della percezione macrobiotica mi si erano spalancate. Seduta al centro della stanza a fumare marijuana con il mio narghilè, come un piccolo Buddha strafatto, mentre ben 20 giapponesi si erano appena denudati, sdraiandosi a terra. Al grido di Gufu, Matiz, Yotamato, Chevrolet, ci fu un urlo all'unisono. I beccucci bianchi brillavano alla luce dei neon, come spade luccicanti pronte alla battaglia. E al seguito di Suzuki Tada, ma non Tada, Suzuki, che tradotto è chi fa la spia non è figlio di Maria, vidi i beccucci cadere dall'alto per entrare nei singoli culi. Aprite le valvole, miei samurai. L'acqua si impadronì velocemente delle loro anime e poi il silenzio ovunque.